Sì. Ce ne avvantele. Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora Natale, via. Tutto a posto. Non ho capito anche tu che c'era Concetta che mi ha soprammodulato. Ho detto, tutto a posto. E mi stavo utilizzando. Non ho tentato su battare adesso. Ho provendi a attesa. Ui, che se non posso accendere. Posso accendere anche due apparecchi, posso accendere. Quindi la blu vende, va. Già, andava in giù. Sì, cappa. Io ero dal meccanico che ho fatto danno con la macchina. Cazzo. Ho rifornito e mi hanno messo tutta l'acqua nel serbatoio. E mi sei più mandato la macchina che mandato. A lui basta farlo pagare. Ehi, un cazzo mi pagano, era giù la superstrada a un automatico e poi non me ne pagano, perché l'altra volta che mi è successo lo stesso non me ne hanno pagato, mi si è facciata vista la pompa della benzina, 250 euro. Del gasolio? Sì. No, che se ti punti te la vuoi pagare per forza, perché anche no, adesso è un danno ai denti, era pieno di mombetta. E subito ti si ferma a me, dico che tu mangiano un cazzo, non sei più nata, cazzo. Perché tu non lo sai svuotare? Tutto il serbatoio abbiamo dovuto svuotare, mettere il filtro della naftata nuovo e aggiungere l'additivo per gli iniettori al coso, al gasolio. Esatto. E io pago. Minimo ti ha costato 30 euro. Sì, a 200. A giubuccio pure 40 euro di gasolio, a giubuccio. Ma cosa, una volta chi su te l'avremmo dovuto rampare, era tutto pieno d'Eva. Tutto sporco era come gasolio. Pucci, gas. No, io avevo dovuto, mi chiese il gasolio tuo, come la vogliamo mettere? Mi fa, ma la gasolio me lo paghi? E avrei detto, come la vogliamo mettere qua? Ce lo so, ti sto chiamando l'acqua e ti sto facendo fare le verifiche. Sto chiamando l'organo competente. La finanza bisogna mandarle ai taglienti, a farli sarrare. Bastardi, cazzo. Tutto sporco, cazzo, era quel gasolio, è pieno d'acqua. Ma la macchina non è così. Poi quella è il modello nuovo come la mia. Cazzo, sono delicatissime, non sono come le macchine vecchie, cazzo, che li puni qualsiasi cosa e funzionavano. Cazzo, subito ci si beve. Ehi, allora cosa era pieno? Pieno di anche era stato un pieno. Tutte va era. Come entra acqua nel circuito ti si ferma subito la macchina. Andrà in borsa a lui, questa bucheria andrà in borsa. Un rifornitore automatico della superstrada l'ho messa, perché ero senza gasolio, ho detto adesso metto un po' di gasolio, cazzo mi ero pieno, via. Il capo dove sei andato, Matteo? Fuori ero. Cazzo. Ma già mi è cuccato, cazzo. Per evitare. Io, cioè, noi mettevamo molto il blu diesel per evitare problemi. Allora come ti dici, bisogna già la macchina, dopo che cazzo, comincia a tirare. Eppure il blu diesel mi ha detto che non va tanto bene, mia. Chi è un bel asciutto, dite? Il tech non è asciutto. Il tech è normale come le altre. E quel blu diesel di una volta. Se il blu diesel di una volta ti ha problemi, ma che c'è un nuovo. Se glielo metto ogni tanto non fa niente, è tanto cammina da voi. Ah, io non mi sono mai fidato perché mi hanno detto che il blu diesel era l'offio. E allora ho messo sempre gasolio normale. E lei no, ma è quello di una volta, il primo che avevano fatto, poi dopo l'avevano fatto buono, non faceva più quel difetto. E comunque, vabbè, se non lo vuoi mettere, non lo mettere. Fallo andare a olio bruciato. Buonasera Gianni, buonasera. Buonasera. Ma lo sai che c'è qualcuno che va a raccattarsi l'olio dalle friggitorie per far andare la macchina a diesel? Vedete che funziona. E se vuole la mia macchina mia, c'è stati a crema sul motore. Cazzo, io volevo farla provare, andare col gasolio agricolo, no? La macchina mia. Ma ha detto, signor Benito, cazzo, non sta trivichi, ci sono motori nuovi. La macchina di Babu Doi voleva andare così, ma la doia dice crema subito il motore. E beh, ci sono fatti con una diversa concezione. Quella mia, cazzo, è diversa da chi c'è, va via mio padre, è diverso il motore, cazzo, ma sai, buona, non arrivi a 200 una mia. La mettiamo da mani con il materasso. Ehi, vabbè, così. Oh signore, cosa faccio? La mia, quella di Babu già la facevo andare col gasolio agricolo, perché con un trattore vira via. Ma cazzo, la mia ha detto non ti attrivichi, ti grima a pompa e canzu vedi. Il gasolio agricolo è troppo sporco, troppo, è pulito del gasolio di che usano di trazione, che lo sai, ma la succede. Tipo ghiaccio c'è ben brutto, Una volta ci può dire abbonita, va, mi sembra che un litro d'otto di ghiaccio da oggi, però puro, senza essere cosa. Ghiaccio già andata, ma già di piatto di ghiaccio, non li fa nulla. Non lo so, la macchina mia no, non mi fido, balle sono. Ma ha vissuto un meccanico, ha detto non ti attrivi a chi c'è, noi come entra la macchina. I motori vecchi sì che lo potevi fare, cazzo, ma chi si nuovi con la turbina, balle so. A saltarsi, a consaltarsi. Ma la cosa può farsi, non riparti nulla lo so. Anzi, anda pure meglio la macchina, è consumata, cioè ti dà pure di più il motore. L'abbiamo provato noi, altro, risultati eccellenti proprio. Mi ha dato, quando costava poco, ancora non conveni più. Gliene mettevamo un litro, ragazzi, andato da voi, pulito proprio. Ma io non mi sono mai fidato, perché no, perché il motore mio è un bel spinto e no, non fa. E poi dici che si muove subito, si consasseggia. I motori vecchi sì che lo potevi fare, i motori vecchi diesel, ma questi nuovi non ti devi fidare, no? A tu c'era un periodo che i supermercati non avevano più gli adesivi, perché se non compravano la ruba per mettersi pieno nelle macchine. A me non li fa niente, mica, è ragazzo un ruba a voi. E l'olio cosa vuoi che li faccia? Non c'ha residui, non c'ha nulla. Magari risulta meno viscoso dell'olio che metti per il motore, però come carburante va bene. Cazzo, va bene, cammina pure di più, è più pulito pure. Noi lo mettevamo prima. Ma dove? Nelle macchine di lavoro? Allora, nel multijet, no, il GTD, no. Che è ancora più invece, nel multijet addirittura. Allora che andava. Cioè, adesso non conviene più perché costa troppo. Abbassate di nuovo, Anto. Abbassato, ma costa sempre un bel. No, un euro è qualcosa. Vabbè, allora. Meno del gasolio costa. Quanto va bene. C'è tutto il pieno. Cioè, svuotavano gli scaffali dei negozi, c'era un periodo che non acciappavi più. Ehi, è vero. E io ho visto le fotografie anche su internet per gli scaffali butti dove c'era l'olio di semi. Adesso non mi ricordo se è semi d'arachidi o che cosa sia, però è olio di semi. State dicendo delle grosse tronzate, l'olio di colza usavano, ma no a trarlo. Ma cosa si dice? Ma cosa? Pure arachidi, da come ti brucia? Ma cosa si intende? No, non mi che non dico tronzate, ma se no te lo posso vedere io avvesciata la macchina. La mia è già così. Cazzo. Cazzo. cazzo, ma se ti so cos'è, ma un po' fare di Giuseppe, cazzo, mi sei filmata. Ho dovuto svuotare tutto il serbatoio stasera. Ma chi è andato su stesso? Cazzo, l'altro giorno, l'altra domenica, volevo andare a salutare Gianfranco al campo, mi sono messo, no? E avevo poco gasolio, c'avevo. E non rifornisco in un rifornitore della superstrada, tornandone a Sarcia. Cazzo, mi sei bloccata la macchina, buco su Manzano, ho preso subito e ho smontato, ho svuotato il serbatoio, il filtro di naffa ha cambiato, ho messo l'additivo nel gasolio nuovo che ho messo, a chi si dice, se ti si inciava nei iniettori di quel camigliero lo danno. E cos'era sporco? Eva, c'è l'acqua nel gasolio, mi è successo già un'altra volta e mi è costato 250 euro di pompa. E ma la colpa è loro, dove si risarcisce da loro? Col cazzo te ne pagano, né chi sa voce né chi sa voce me ne date. L'altra volta sono andato, non me ne hanno dato e ho pagato 250 euro perché mi si è crepata pure la pompa del gasolio. Questo va a segnalarlo, ma cosa segnerei, cazzo? La vinata bisogna mandarli, avete, si ripartono i verifichi come ti viene a te fatto, cazzo, e ripartono i sarrappi. E quello è il pozzo che è sporco, perché praticamente c'ha residui. E ci sono piene d'acqua, Anna. Io so, logicamente anche se ci metteva benzinato si blocca, allora pronti si chiude la macchina, arriva a un certo punto che si spegne, perché non ho il carburante, esatto, meno male che hanno questi sistemi qua, meno male. Poi il tappo non è al serbatoio per scaricarlo, cazzo, l'abbiamo dovuto scaricare con la pompa della macchina, il gasolio. Dove c'è la naffata, no, dove c'è il filtro della naffata, da lì sta che cosa ne c'è la naffata, come c'è il quadro. Lui mi dà una giubbina, chi va via non viene. L'anno prossimo sono due giorni. Tu rampati, raggio. Ma che era tutto scuro e pieno d'acqua. Io già ho un punto, già ho un punto. Devi prendere e mettere una pompa e tirare. Fallo andare. Così. Ha giubato due volte, ha giubato, che ti ha portato la benzina. Se devi mettere la benzina, basta che non ne metti troppa, non ne fa nulla a caso. Perché molti autisti nel pieno ne mettono uno, due litri di benzina sempre per pulire il motore. Ma che ti ho portato tutta la benzina? Sbagliato con lì. E lo sai che chi l'ha fatto quel gioco lì? Ecco, a quella di Gnogno. C'aveva la macchina a gasolio prima, no? Si compra la macchina nuova e sta posto un pieno di benzina. Se va sicuro. Dire, c'aveva la macchina a gasolio prima, la nuova era a benzina, e lui ci ha messo il gasolio dentro la benzina. Picchia in testa mia, lo sai. Cazzo, il fumo, il scia, la macchina non camminava. Fu un casino che gli è successo una volta. Ti può bruciare la correzione della testata, quelle macchine vecchie che bruciavano in tutto. Queste nuove ci bloccano, ma quelle vecchie ti bruciano la correzione della testata. La nuova, quella di Gnogno, ci aveva cambiato la macchina lui, e prima c'aveva la macchina che era a gasolio, ha sbagliato, invece di mettere benzina nella nuova macchina, perché era benzina, ci ha messo il gasolio nel serbatoio. Gesù, e che mi fate un po' di casino, fumo. Casina regole su te, sulla voce. Fate il mio dallo. Ma ancora esiste. Già staremo fatti quando si usano altre macchine. Io per dire cambiamo dalla macchina. macchina diesel a quella benzina, perché in vita lo chiamo diesel, così proprio diesel, quindi. E poi magari, sai, abituato a mettere nel furgone, nel camion, metterci il gasolio. Tante volte ti puoi sbagliare, anche in macchina tua magari metti il gasolio. Una volta me ne sono reso conto in tempo. Almeno male. Cioè veramente mi hanno detto il benzinaio, che mi ha detto, ma questa qui non è benzina già. E lui che ha pistola in mano. Purtroppo è così, sempre buono di gasolio, gasolio, gasolio, meno male che no. Ma poi c'è conto lo stesso, perché non entra. Cioè adesso in queste nuove macchine, qua il gasolio è più grosso e non entra. Invece a coso? A Camino, quello di... La cosa della benzina verde, cioè qualche, c'è il coso più buono, allora che c'era la stufa, mi pare che era più grosso. Adesso che c'è la benzina, cioè non entra proprio, non dovrebbe entrare. Io già ne metto poca benzina. E vado a gas. E vado a gas, sì. Benzina la metto, ce l'ho per mettere in moto, mi dura 20 euro, mi dura un po' di tempo. Lei la voglia. Poi quando raggiunge la temperatura giusta si cambia il gas da solo, capito? La benzina mi è provata, la ciuccia benzina. Ce l'ho provata, sì. Però cammina, anche a gas cammina bene. A benzina naturalmente succhia di più. E beh, normale, no, ma c'è un motore abbastanza tranquillo. A gas va bene. Guarda, non me ne sono pentito di averla presa a gas. Sì, perché adesso quelle nuove sono diverse. La tua è nata per andare a gas. È logico che va bene quella che hai tu. Perché nell'astra non me l'avevo fatto mettere io l'impianto a gas, ne avevo parlato con Angelo, perché tutti dicevano c'è una bomba sotto al sedere, e siamo andati con mia moglie a casa di Angelo a chiedergli la storia, e lui ha detto già, non è dire, perché io sono rivissuto da quando me l'ho messo l'impianto, non mi dà nessun problema, filtro del gas non inizia a buare, me ne dimetti Gheggio, oh, e andrà sempre bene. Vai, mettitelo, non dare per nessuno, metto quello che lo dicono, vuol dire che non ce l'hanno, che non sanno manco cosa stanno dicendo. Cazzo, infatti quel consiglio mi è servito, perché me l'ho messo, me l'ho fatto mettere, e io da 300 euro che spendevo al mese per viaggiare a Porto Torres, col gas ne spendevo 130. Allora sai cosa gli è successo al mio ex cognato, che faceva il vigile del fuoco, era appena entrato ed era, l'avevano mandato a Cagliari, l'avevano mandato. La mattina per tornare a Sassari lui, quando aveva finito il turno, l'aveva lasciata accesa la macchina a gas, vicino al bar che stava prendendo il caffè, e se fuori e vede la macchina in fiamme, ha pigliato fuoco. Sì, vuol dire c'era qualche perdita, può succedere. E non l'hai vista quella casa che si è incendiata a Sassari? Un condominio tutto, praticamente hanno cambiato i contattori, hanno messo quelli nuovi, stanno mettendo i contattori nuovi, no? Hanno messo i contattori nuovi, in casa ha pigliato fuoco, tutto il blocco dei contattori, ha fatto salire il fumo nero nel palazzo, era tutto intossicato. E chi sa che bagno va nel mappa? Non me l'hanno ciambato le onghe. Ciambato dire? Sì, sì, è nuovo. Anche qua l'hanno cambiato, tutti qua. Dice che queste qui reggono di più. Non lo so. Ma io ho parlato con gli operai e hanno detto che puoi caricarli di più questi. Ma voi se cazzate a dito, cazzate di gioco di zero. Non lo so, no, non so. Non lo so, però mi hanno cambiato a me, dice che sono meglio. Ciao. Ma dentro casa tu ce l'hai contatto? Scappa. Ecco. E dice che forse dipende proprio come l'hanno piazzato, che hanno fatto qualche casino, perché non è possibile. E si sono salvati due ragazzi, stavano per restare intrappolati, l'hanno salvati, erano scioccati, e una condomina li ha salvati, questa condomina del palazzo. Natale, poi riprenditela, da te il contatto è cambiatela. Dice che sicuramente è stato qualche sbaglio che hanno fatto, qualche problema che c'è stato il contatto di lui. A me me l'hanno cambiato, vabbè. Tu dentro casa ce l'hai. Sì, signore. L'unica cosa che ho fatto, gli ho messo il salvavita nuovo perché mi era saltato quel salvavita che avevo. E praticamente gliel'ho messo nuovo e così ho cambiato anche i cavi che vanno dal contattore al salvavita, per aggiungere quelli grossi, di lusso. Ma tu li hai fatti? Quello l'ho fatto io. Quel salvavita sembra così, però già inutile, se c'è un corto ti si stacca. A che ora sono andate? Le 7:10? Sì signore, sono le 7:10. Cazzo, mi separa dalla glicemia 98, ragazzi. Piazzata, 98 va bene. No, oh, mi è scesa 98. Ieri ce l'avevo a 73. Dice no, mi te. Allora di pranzo, prima di pranzo l'ho misurato a 73, ce l'ho. Vabbè, ma tu fai l'insulina, invece io no, io la faccio solo la notte l'insulina, capito? E poi ne faccio 6 unità solo io di insulina, di quella lenta. E vuol dire, cosa prendi? Le pastiglie, la stessa cosa? Una pastiglia prendo e mi dura per tutto il giorno. Perché tu non ce l'hai, il tuo è una cosa leggera, se magari tu ti regoli col pasto riesci anche a non farti nulla. Per regolarmi bisogna non mangiare nulla. Lo so. Anche a me mi ha detto, se ti regoli col pasto non hai bisogno di farti né insulina né nulla. Ma come fai? Allora su internet ci duro, questo qui dice di essere un dottore, cosa, che ha scoperto come si cura il diabete in pochi giorni. In pochi giorni ti fa scendere la glicemia, non ti sale più. Una volta. Cosa che hanno scritto non credete a questi cialtroni, questo e quell'altro, che non è possibile una cosa del genere, addirittura ti dice di smettere con la, di smettere con l'insulina, con le pastiglie, devi prendere questa pastiglia che ti dà lui, una pastiglia, e dice che ti fa passare proprio il diabete completamente. Ma quando lo vedo ci credo già. Ma se il pancreas che non funziona, quando uno ha diabete, ha una parte del pancreas che non funziona, poi vabbè, non ha parte o tutto, io ne ho una parte che non funziona. E praticamente come fa a ripristinare con la pastiglia? Che siamo costruiti. Infatti, io l'aggiù il diabete, ma cosa cazzo già ho la pancreatite? Praticamente il pancreas non è funzionando. Sì, sta funzionando, ma in parte, se non funzionava avresti fatto il insulina standard. Già lo so, però è proprio la pancreatite che mi ha provocato quello, capito l'hai già. Ma tu eri anche, diciamo, c'era tua madre che era diabetica, quindi potevi anche prendertelo lo stesso. Sì, io lo sapevo che ero predisposto, infatti stavo attento a quello che mangiavo, però cazzo, non puoi mangiare nulla, si può dire. E avanno, dai, gente, dai. Ho fatto una fatica a trovare il forcetto, non riuscivo a trovarlo da nessuna parte, non veniva. E poi sono andato in questa macelleria e mi ha detto guarda, mi devono arrivare domani mattina. Le telefonate a fine mattinata, mi telefono a fine mattinata e magari stasera penso che li putti. L'ho dovuto seguire per prendere il forcetto. può dire che mangiamo questa cosa se non acciappo? Natale, io l'ho fatto perché mia figlia gli piace il porcetto e quando viene qua mi chiede sempre di fare il porcetto, l'agnello non gli piace, sono a pranzo qua, quindi cosa mostro? Ti mostro l'agnello che non ne mangia. No, io la cosa gli ho optato, se non è troppo già c'ho io una scatola di gamberoni e mi mangio visi. Vabbè, perché mangi giù, anche io gli ho fatti i gamberoni un anno, hanno fatto i gamberoni, tutta roba di mare, c'era salmone, c'era un sacco di roba, tutta roba di mare, insalata di mare, tutto così l'ho fatto. Infatti, l'anno passato ho già fatto di così matessi, ma ho gotto questi gambaroni a che dove venivo. Antonello qua, che a mangiare, a Natale. E quando è venuto, siccome sta, prima va dalla zia, poi andrà dalla Zuzara, da poi viene ai noghi, ed erano sempre tutti a base di garri, garri, garri, come non ha visto il gamberone, ha detto, cata, non mi sembra vero. E poi queste feste si avanza un pezzo di porcetto, un pezzo d'agnello, ti rimani da poi parlo la pazzia, e insomma stai sempre mangiando. Ehi, statemi, io ho un culo di due gamberoni, sto tranquillo, me. Quattro gamberoni ha già fatto, io non ne mangio. E già sono andati, qua per anche così ne mangio. Mi taccio, a te sono i piatti di gamberoni, ma... Occhio che li possono far male, mi, perché gli ho dati a curto e l'hanno fatto male, da una volta non ne ha più dato. No, a lui no, lui ne ha mangiato due l'anno scorso, non gli hanno fatto niente. Le risbuccio e gli do, due ne ha mangiato, non hanno fatto nulla. E io li faccio colare, ho prezzemolo, con peperoncino e vi lo bianco. E anche io li faccio buoni. Ma dico, non penso che così li facciano male. Eppure a Curto gli hanno fatto male i gamberoni. Gli ha detto il gabbi di gamberone, mi, a mangiare. Certo, gli hanno fatto male, poverino. Non gliela do più. Ma i gabbi la tese in rampo io. Nessuno che ce li butto, no, io gli do la polpa, li sbuccio, gli do la polpa quella che c'è dentro, quello per forza, cazzo vanno in bugiglione, secondo come ti letra di bucare il destino. Non gli avevano fatto mai niente, un anno gli hanno fatto mari, i gamberoni, e allora dalla voce a più. E ma tu li davi i grossi, loro i gamberoni, è diverso. Io gli do la polpa in terra a quella che c'è, che mangiamo noi, e quella già la mangia tranquilla, non ne do molte, ne do solo per gustare, così due, basta. No, io non gliele do né la polpa né i gabbi, non le do più nulla, a che una volta l'hanno fatto male a vivo. E Curto è ripreso bene, signor? Sì, tranquillo, già si è ripreso bene. Ti attento a non passare in corso Trinità, quello lì, se no gli faccio la fotografia a lui. Poi quelli non ci mettono problemi, ma se sta a guinzaglio, No, adesso lo sta portando al guinzaglio. Lo sta portando, però la musica durma a te c'è Rugani meglio. È perché io quando vedo che c'è un altro cane mi sposto, me ne vado dall'altra parte, non ci passo vicino, adesso se rimasto vicino non lo ci può singhetto. Non gli ha dato il tempo, sta facendo dal piccolo concetta col cane, non, e non se ne è accorta. All'improvviso brutto. La prima volta addirittura da dietro è andato questo bastardo del cane. E anche adesso non l'ha fatto uscire, abbinata dalla cuscia, l'ha buttato in terra e dopo l'ha preso al collo, tra il collo e l'orecchio. Bastava mullarlo già. Cosa? Bastava mullarlo, a voi che non lo fa via. C'aveva la cuceruola a Taiso, poveraccio. Ma ce ne ha approfittato. E allora? Vabbè, sono cani furti, non è che... Però anche in Taiso non ha moccato la grazia, si raggrava, sì. Perché si è zuffato con un altro cane che gli è andato addosso e ha pigliato golpi. Ma la volta non ne aveva bucerola, ce l'aveva guinzaglio, io sono caduto in terra, mi ha tirato per andare addosso a quel cane e mi ha rotto anche i pantaloni. Questo cane era senza guinzaglio, è partito a razzo, è andato a morsicare a testa di quei cani grandi, e ha stata musica da stagione, si alza di notte a quattro zampe, ma tirato, ma l'ha fatto intero, l'ha tirato da che mandate, rimbricato in alto, e io ci ho mirato un colpo, ha fatto cai cai cai, dai che tu metti un poco di mosso. Sono rientrato, E il padrone mi ha chiesto scusa, capito? Scusa un capo, te cane senza guizzare, non si lascia, c'è i pantaloni, chi me li paga? Ma guarda, mi sfaccetto, i pantaloni lì mi schermo, e se me la comparate, 100 euro che ho pagato, i pantaloni lì. Carità, prova a parlare tu, Natalia. Ma sai cosa vuoi? Bisogna abbigliare una pistola e pulisci la busciacca, quando tu sei dei cittadini, mi rendi, perché non è possibile, guarda, una cosa del genere. Cazzo, che non puoi uscire tranquillo col cane perché ci sono tutti questi pizzi muri in giro senza essere governati dal padrone, perché li lasciano senza guinzaggio. Sì, se la si capava dai, io non lo so così, si poteva tanto un dopo questo cane, perché c'ha la museruola, poverino. E meno male c'era Margherita, questa ragazza stava parlando con me che c'ha un pitbull lì, però nel momento non ce l'aveva. È stata Remy che l'ha liberata, se no me l'ammazzava, me lo strangolava perché l'ha preso la gola. Comunque, non ho parlato di paradimbini, ma stava parlando. Ma tu, nel momento, qua, mi sono imbambolato, non lo so nemmeno, non sapevo più cosa fare, capito? Paradimbini. Non ne fa nulla, addirittura gli hanno messo anche l'accendino sotto le palle per farlo mollare. Non lo molla, non è compreso, è maro che un raio, pure hanno messo l'accendino sotto acceso. Gli hanno buttato un'acqua ghiacciata, niente da fare. E maro è, maro è. Sono maro che il raio su gare. Allora, visto dove è mia Florina, dove c'è pura lì. Questo qua l'ha legato a un palo, il cane è andato a fare la spesa, il pitbull, è andato a fare la spesa, questo signore che passasse qui con un cane di quelli un po' così, però molto affettuoso come il cane, bello. E praticamente questo pitbull l'ha visto, ha preso e se ne ha stracciato perché era legato con la cintura, manco guinzaglio era, con la cintura e il pantalone. Cazzo, ha mollato e ha spaccato la cintura ed è andato, il tipo l'ha visto che stava andando contro di lui, ha preso e ha messo il cane su un cassoletto per non prenderlo. Poi è riuscito a prenderlo lo stesso il cane, l'ha preso per la gola. Gli ne stavano uscendo gli occhi fuori al cane di quest'uomo, questo qua ha preso e gli stava aprendo la bocca, cazzo, ha musicato anche il sonno. Per fortuna al momento è uscito il padrone e gli ha dato lo stop e si è bloccato. E questo signore l'ha denunciato anche, è andato dai vigili urbani, tutto quanto, non l'hanno invaduto.